La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Come abbiamo detto più volte, il potere legislativo spetta al Parlamento. Tuttavia, è possibile anche che atti legislativi siano emanati dal governo, ma gli atti legislativi governativi rappresentano comunque una eccezione. La prima eccezione è disciplinata dall'articolo 76, che regola la cosiddetta delegazione legislativa, cioè i decreti legislativi delegati. Il Parlamento, con una legge, può delegare il governo a disciplinare una materia, anche modificando le leggi precedenti. Ma la legge di delegazione del Parlamento deve determinare principi e criteri direttivi, tempo limitato, oggetti definiti. Cioè, il Parlamento può cedere l'esercizio della funzione legislativa al governo, ma soltanto con definizione precisa di limiti. Perché abbiamo la delegazione legislativa? Perché tradizionalmente si pensa che soprattutto nelle materie più tecniche, dove occorrono degli approfondimenti specifici, non possa essere l'intera assemblea parlamentare a esaminare e votare il testo di una legge, ma è più opportuno costituire una commissione di studi e che sia il governo quanto organo tecnico dell'esecutivo a guidare questo testo. Ovviamente la funzione legislativa spetta al Parlamento e quindi deve essere il Parlamento a delineare e indicare le linee guida di questo intervento. Tradizionalmente la delega legislativa viene utilizzata, ad esempio, per emanare i codici. Codice civile, codice penale, codice di procedura penale. Siamo a fronte di decine, centinaia di articoli che spesso riguardano argomenti molto tecnici. Non c'è tempo, non c'è modalità di esaminarli in Parlamento. Il Parlamento identifica le linee guida, i principi guida e poi sarà il governo a predisporre un testo. Questo meccanismo ovviamente dovrebbe essere un meccanismo eccezionale, perché solo in determinate materie limitate gli atti legislativi possono essere emanati e scritti dal governo. Negli ultimi anni invece assistiamo a un uso sempre più frequente e sistematico della delegazione legislativa, perché le materie sono sempre più complicate, il Parlamento non riesce a raggiungere le maggioranze per esaminare e valutare compiutamente i singoli punti e quindi il Parlamento preferisce identificare le linee guida e poi rimandare al governo la scrittura dei testi. Questo accade ad esempio per tutto il recepimento delle direttive comunitarie, accade in alcune materie abitualmente, come per tutte le riforme della pubblica amministrazione e del pubblico impiego. Il Parlamento emana una legge solo con i principi fondamentali e poi sarà il governo a emanare il decreto legislativo. Stranezza procedurale non prevista dalla Costituzione. Visto l'uso sempre più frequente dei decreti legislativi, il Parlamento richiede che il governo, prima dell'emanazione del decreto, mandi al Parlamento lo schema stesso di decreto legislativo, affinché il Parlamento possa effettuare un controllo ulteriore e valutare direttamente il testo del decreto legislativo, prima della sua emanazione. Ovviamente, se il decreto legislativo viola la legge di delega, oltre ad esserci un vizio politico, perché il Parlamento può revocare la fiducia al governo che non ha eseguito correttamente la delega, ci sarà anche il controllo della Corte Costituzionale, perché come giudice delle leggi sarà la Corte Costituzionale a verificare che il singolo decreto corrisponda anche alla sua legge di delega. Ovviamente, la delegazione legislativa è un tema tipicamente tecnico del funzionamento della macchina dello Stato, nel senso che per noi cittadini, in fondo, è indifferente che un punto o una materia sia disciplinata da una legge o da un decreto legislativo. Prendiamo ad esempio il codice della strada. Il codice della strada tecnicamente è un decreto legislativo, ma la sua efficacia per i cittadini è identica, perché una legge e un decreto legislativo sono entrambi atti con forza di legge, come tali obbligatori per lo Stato e per i cittadini.